Siamo con l'artista Fabio Magnasciutti per parlare della mostra delle sue vignette all'Infopoint di Emergency a Roma dal 19 al 26 gennaio 2019. Fabio, ben trovato. Ben trovato, ciao Federico. Allora, dire, dare, baciare. Ci racconti intanto un po' come sono le tue vignette? Questo è già abbastanza complicato oppure molto semplice, non so, in realtà le mie vignette sono dei pensieri più che altro, insomma, che vengono abbastanza spontaneamente nel giro di pochi secondi, insomma, e in pochi minuti poi realizzate. La tecnica che utilizzo è piuttosto veloce, insomma, la realizzazione richiede un tempo molto breve, ma è esattamente quello che mi serve perché la mia necessità è quella di disfarmi il prima possibile dal momento che mi vengono in mente, perché essendo appunto dei pensieri più o meno semplici, ho bisogno di liberarmene nel più breve tempo possibile. Insomma, se aspetto un po' troppo, generalmente poi dopo mi disamoro e non le considero più successivamente. Più in generale, diciamo, non c'è un tema che io affronto più volentieri di altri, insomma, normalmente sono pensieri che riguardano la vita vissuta. C'è stato un periodo in cui sicuramente ho affrontato temi più strettamente politici o proprio diciamo, sul fatto. Questo quando magari mi lo richiedeva la testata per cui stavo lavorando, ho lavorato per l'unità, ho lavorato per il Fatto Quotidiano, dove magari i temi erano strettamente legati appunto all'accaduto. Quando posso e quando ne ho la possibilità, spesso affronto temi che appunto sono di carattere un pochino più generale, insomma, che riguardano appunto il quotidiano. Ecco. La satira, l'umorismo, mi sembra un tratto costante dei tuoi lavori. Sì, guarda, penso che si possa definire satira, adesso non so anche se è un termine un po' abusato, un po' insomma, con un ventaglio piuttosto ampio di interpretazioni. Umorismo sì, credo di sì, è una cosa che è un aspetto della vita proprio che mi ha sempre interessato, questo da quando proprio sono nato, insomma, da una decina d'anni a questa parte, tra l'altro poi ho iniziato a fare delle vignette, perché faccio l'illustratore da più di 30 anni, quindi questo è il mio vero lavoro, insomma, in realtà sono appunto un illustratore dedicato poi anche alla satira da una decina d'anni a questa parte, dove ho iniziato a mettere appunto insieme immagine e testo, insomma, a volte privilegiando l'immagine, a volte privilegiando il testo, questo dipende appunto dall'occasione, insomma, è così. Ecco, per chi ci ascolta, qual è il supporto e quali sono le tecniche? Il supporto è molto semplice, le vignette io le realizzo in digitale per questioni di tempo, anche se normalmente per quanto riguarda le illustrazioni io preferisco di sicuro le tecniche analogiche, l'acrilico in particolare è sicuramente la tecnica che utilizzo di più da sempre, solamente che per fatti proprio puramente tecnici e di tempo a volte le richieste vengono fatte proprio da mezz'ora prima che poi effettivamente serva l'oggetto, mi velocizza molto il lavoro, ho fatto in modo che il lavoro digitale somigli il più possibile a quello dell'acrilico, creandomi dei pennelli appositi che possono in qualche modo ricordare quel tipo di, tra virgolette, calore. Quindi, diciamo, manualmente utilizzo il pennello elettronico come se fosse un pennello tradizionale. In realtà, poi, ecco, appunto, si tratta comunque di una tecnica digitale, insomma, sì. Per quanto riguarda le vignette, non per Sì, quanto riguarda le sì, sì, sì, illustrazioni sì. d'altro genere, insomma, sì. Ecco. Senti, l'incontro con Emergency? Allora, io credo che risalga sicuramente al primo contatto con Michela Greco. Credo che lei mi seguisse già da tempo sui social, poi se non ricordo male lei venne a un mio concerto, da lì poi stabilimmo un contatto e lei mi chiese una prima partecipazione ad un progetto a cui aderì molto volentieri, conoscendo ovviamente il lavoro enorme e prezioso che conduce Emergency, quindi mi sono prestato molto più che volentieri a collaborare, cosa che poi è accaduta diverse altre volte successivamente in varie forme, a volte magari ecco, realizzando materiale per le manifestazioni estive che vengono svolte a Roma, particolarmente essendo su Roma, poi dalla sede centrale ho ricevuto la richiesta di partecipare a un paio di calendari di Emergency e poi anche altri tipi di partecipazione come quello appunto di cui stiamo parlando, quello imminente, che non è il primo, insomma già diverse altre volte all'Infopoint ho suonato particolarmente più che esporre, però comunque calendario dell'anno scorso, cioè ritengo che sia anche doveroso in qualche modo da parte di chiunque, voglio dire, partecipare secondo le proprie possibilità, naturalmente, partecipare ad iniziative di questo tipo, insomma, se. Comunque sì, diciamo che sicuramente il bilancio è stato sicuramente Michela, insomma, perché è andato avanti un po' autonomamente, ma per mantenendo il contatto appunto con lei, insomma. Sì. Allora, 50 tavole in mostra per una settimana, ho visto c'è l'evento Facebook, altri riferimenti web? No, riferimenti web, in realtà io ecco, sono presente principalmente sui social, per cui il mio sito è fermo da anni oramai, perché è un po' perché è obsoleto, ma è obsoleto proprio come formato, insomma, in realtà per pigrizia ho dimenticato di aggiornarlo per un lungo periodo, dopodiché dopo l'ho accantonato, adesso sto semplicemente aspettando che di rinnovarlo completamente, però diciamo che sostanzialmente le mie cose sono visibili principalmente su Facebook e su Instagram. Benissimo. Agli indirizzi che portano il mio nome, insomma. E allora ricordiamo la mostra Dire, Dare, Baciare delle vignette di Fabio Magnasciutti a Roma, all'InfoPoint, sì. Emergency, dal 19 al 26 gennaio. Fabio, un abbraccio, in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie mille Federico, ciao. Ciao. Ciao. Ciao.